mondi nel gianicolo, nel vicolo di passi con i ciottoli, scoiattoli e pasticche con siringhe infette insetti, i piatti rotti e torti, granelli di ciambriciole di torte, si forma come un cumulo di aorte, si ferma il vento ma per un istante, per dopo ritornare nel suo punto di partenza, e come pescatore con la lenza, non peschi le balene con le mele ma pazienza, se resti solitario in una stanza, il cielo non si scosta, divieto di una sosta come siesta, vedi nero ed è bisogno di una fiesta, è inutile che gridi quel tuo nome 420, se siamo 19 non fa 80, di voglia neanche tanta, di una scopa e di un rastrello, ho voglia di un duello e un due di picche senza macchie, ho voglia di una voglia di mirtillo ed un anello stile Nunzio come Muzio, scivolo nel baratro e bestemmio per un figlio, sei passato nel mio stato te lo auguro, e discrimino le mani ed il domani che rinviene dal suo coma, e se vive in una farsa, forse mi rimane anche la forza della recita dei satiri, ma i riti non convengono con echi, c'è chi trattiene il fiato per riprenderli, son pugile in un angolo, sul ring di chi costringe il suo nemico ad essere subdolo, tu pungoli con pungolo, la gente si divide come lettere con virgole, come gusci dalle vongole, come piedi inverno e sandali, rimandali al mittente i tuoi saluti sordi e ciechi, e saranno messaggeri che daranno il benvenuto a sordomuti, la gente si divide come lettere con virgole, come gusci dalle vongole, come piedi inverno e sandali, e rimandali al mittente i tuoi saluti sordi e ciechi, e saranno messaggeri che daranno il benvenuto a sordomuti, la gente si divide come lettere con virgole, come gusci dalle vongole, come piedi inverno e sandali, rimandali al mittente i tuoi saluti sordi e ciechi, e saranno messaggeri che daranno il benvenuto a sordomuti, la gente si divide come lettere con virgole, come gusci dalle vongole, come piedi inverno e sandali, rimandali al mittente i tuoi saluti sordi e ciechi.